delirio. Machete Crew. This is Danny the Cool Production. Sopra il beat un kick, faccio la hit, faccio spit, faccio quello che mi pare. Puttana, non commentare. Se ti vivi la mia vita è meglio se lasci stare. Dopo un quarto d'ora inizieresti a spoccare. Vado veloce, quello che faccio, sono diretto. E quello che ho detto, sono il migliore, non l'ho mai detto. Pieno di errori, ma è perfetto. Lascio che il mio rap prenda schiaffi il tuo verdetto. Continua pure a parlare fottuto e trasbuscia a letto. Fusione di stili, a due canni come i fucili. Nelle mie testa dirindiri, con questa erba ti rigiri. Resta bocca aperta mentre chiudo l'ennesima barra. La mia lingua è una scimitarra, tesoro te la lecco ma te taglia. Me ne frego dei vostri pensieri da benestante. Sei la vita una puttana che ti apre le gambe. Niente male per un rapper ritenuto ignorante. Ma c'è tempare, il mixtape volume 3 sta per arrivare.